voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I don't like violence, Tom. I'm a businessman. Blood is a big expense. Thank you. Domini vobisco. E ti cummi spirito to, risposero una decina di voci sperse nell'oscuro profondo della chiesa, rado rado punteggiato da qualche lumino e da cannile di grasso fetente. I tivinni, la missa è. Ci fu una rumorata di segge smosse, la prima messa del mattino era finita. Una femmina ebbe una botta di tosse. Padre Artemio Carnazza fece una mezza inginocchiata davanti all'altare maggiore, scomparse di prescia nella sacrestia, dove il sacrestano, moro di sonno come era sempre, l'aspettava per aiutarlo a spogliarsi dei paramenti. Questo era l'incipit della Mossa del Cavallo di Andrea Camilleri. Oh, We'll be right back. stillness of the day. È una nuova produzione Jack Jaguar, etichetta statunitense di cui ogni tanto sentite parlare all'interno di Eclettica, in quanto spesso ci sono sue produzioni che io ritengo di interesse, come questa nuova, è un esordio di un quintetto newyorkese di nome Alex Delivery, ve lo siete appena ascoltati, un estratto dal titolo Comad dall'album Star Destroyer, che ha richiesto 2 anni di lavorazione. Debbono essere dei tipi pignoli questi Alex Delivery, ne sono assolutamente sicuro. Ed ora invece ritorniamo in Brasile, il Brasile di Eclettica, ovviamente, il Brasile dei Bonde d'Orone. She sleeps with the fishes. And now I'm coming clear. One girl with a band in the hand, one girl, one Appena risvegliatosi, decise di telefonare in commissariato per avvertire che quel giorno proprio non era cosa, non ce l'avrebbe fatta ad andare in ufficio. Durante la notte una botta di influenza l'aveva assugliato di colpo, come uno di quei cani che manco abbaiano e li vedi solo quando già ti hanno azzannato la gola. Fece per sussirisi, ma si fermò a mezzo, le ossa gli dolevano, le giunture scricchiolavano. Dovette ripigliare il movimento con coatela. Finalmente arrivò all'altezza del telefono, allungò il braccio e in quel preciso momento la suoneria squillò. «Pronti, dottori? Parlo con lei di persona personalmente? Mi riconobbe? Catarella sono». «Ti arriconobbi, Catarè, che vuoi?» «Niente voglio, dottori». «E allora perché mi chiami?» «Ora vengo e mi spiego, dottori. Io di persona personalmente non voglio niente da lei, ma c'è il dottor Augello che ci vorrebbe dire una cosa. Che faccio, ci lo passo o no?» «Va bene, passamelo». «Ristassi al parecchio, che ci faccio parlare». Questo era l'incipit della paura di Montalbano, di Andrea Camilleri. Thank you. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 30, volume numero 3. Indice: Tar Water, Sister Vanilla, The Shins, Calvin Johnson and the Sons of the Soil, David Kirsten Daniels, Ronin, Jennifer Ever, Alex Delivery, Bonded Orole, Mercy Miss Monroe, Ajagas. Il film The Godfather. Gli incipit: Il ladro di merendine, Un mese con Montalbano, La mossa del cavallo, La paura di Montalbano, Tutti e quattro, di Andrea Camilleri.